America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. So Cypriots are furious with government plans to take some of their savings to partially fund a bailout of the country's banks. Cipro, il membro junior dell'Unione Europea, dell'euro, ha fatto notizia purtroppo non in senso positivo, perché sta negoziando con l'Europa l'idea di tassare depositi bancari, fare un prelievo forzoso sui depositi bancari. Ci sono varie ipotesi allo studio, ma ciascuna di queste, indipendentemente da quale sarà la misura finale, ha chiaramente creato un piccolo terremoto sul mercato. Perché? Beh, perché ci si chiede se questo è stato fatto con Cipro, poi cosa succederà con gli altri. E c'è stato un rapporto di Morgan Stanley uscito poco fa che in effetti esprime molta preoccupazione, perché dice il rapporto si è rotto un tabù con questo prelievo forzoso. Ora, noi abbiamo vissuto dei momenti in cui ci sono stati dei prelievi forzosi nel luglio del 92 con Giuliano Amato, però si parlava di percentuali dello 0,6%, quindi come dire, una tassa relativamente contenuta, e qui invece si parla di cifre che veramente fanno tremare i polsi, perché all'inizio si è detto ci sarà una tassa del 10%, ci sarà una tassa media, ci sarà un prelievo medio del 6,75% su tutti. Dopodiché si è cercato di creare un minimo di progressione, e quindi si è parlato prima del 6 e poi del 9 per depositi al di sopra dei 100.000 euro. Adesso c'è un'altra formula: 3% per i depositi al di sotto dei 100.000 euro, 10% per i depositi fra i 100.000 e i 500.000 euro, 15% per i depositi al di sopra dei 500.000 euro. Ecco, quando cominciamo a parlare di percentuali del 10 o del 15%, si parla di un prelievo che obiettivamente induce alla fuga, come si dice. E infatti anche molti investitori internazionali stanno meditando seriamente se uscire, lasciare e chiudere quelli che sono i propri rapporti con Cipro. Però al di là di quello che succede a Cipro, che è un'economia minuscola, non ha alcun impatto su quello che è l'equilibrio dell'euro, è il principio che spaventa, soprattutto per quei paesi considerati un po' come l'anello debole della catena, e dunque l'Italia. E non è un caso se in Italia la borsa ha reagito non bene. America 24. Milano, in questo momento si sta viaggiando attorno al meno 2%, abbiamo fatto meno 2,15, 2,01, insomma siamo attorno al 2%. Francoforte, Parigi, meno 1,2%, Londra, meno 1%, le altre piazze hanno tenuto un po' meglio, ma le preoccupazioni ovviamente sono soprattutto per noi. Pensate, lo spread sul bond decennale italiano già venerdì era salito da 308 a 315 e oggi è già balzato a 330, ha avuto anche un massimo di 334. Quindi la situazione è tesa e nervosa, le condizioni economiche di fondo restano fragili, e allora ci si domanda poi che piega prenderà dal punto di vista finanziario sia la risposta dei mercati sia quella dei governi. E per il momento direi che possiamo tornare da questa parte della costa atlantica, dove la Federal Reserve sta facendo da sponda e continuerà a fare da sponda. Too big to fail is not absolute. There are spreads, their credit default swaps say there is some probability of failure. Ben Bernanke, il presidente della Federal Reserve, continua a dominare il suo consiglio. Domani, martedì e dopodomani, mercoledì, ci saranno le riunioni del Federal Open Market Committee della Federal Reserve, il comitato monetario, che dovrà discutere il da farsi. Come sapete, ne abbiamo parlato qui ad America 24, ci sono state polemiche all'interno del Consiglio della Fed perché alcuni membri del Consiglio cominciano a domandarsi se non sia il caso di cominciare a, se non stringere, ma a passare in una posizione neutrale. Finora la Federal Reserve ha avuto una posizione straordinariamente accomodante. In questo momento vengono acquistati 85 miliardi di dollari al mese, sia di titoli del Tesoro che di strumenti che poggiano, diciamo, su mutui immobiliari. Questi acquisti dovrebbero continuare fino al 2014. Il tasso di interesse interbancario, come sapete, è vicino allo zero. La preoccupazione della Fed è che se l'economia si è ripresa abbastanza, il mercato del lavoro resta molto debole, con un tasso di disoccupazione al di sopra del 7,7%, e la Fed ha un punto di riferimento molto preciso, dice che continuerà con la politica accomodante fino a quando il tasso di disoccupazione non sarà sceso al 6,5%. Ecco, questo crea però una preoccupazione dal punto di vista intellettuale per alcuni membri del Consiglio della Fed, i quali si domandano se non ci sia un rischio, se non di inflazione, perché fino a un certo punto si parlava di rischio inflazione, a questo punto l'inflazione sembra sotto controllo, ma ci si domanda se non ci sia il pericolo di creare una predisposizione al rischio eccessivo, e cioè gran parte delle banche, dei banchieri, ma anche delle aziende si indebitano più che possono e magari si lanciano in operazioni di investimento non necessariamente solidissime, semplicemente perché c'è questo accesso al credito facile che non si sa quanto durerà. Headlines: The Wall Street Journal says a Senate report is slamming JP Morgan Chase. JP Morgan Chase è il mirino dei regulators, di coloro che cercano di controllare l'attività delle banche americane. Ci sono state anche delle audizioni in Parlamento, legate alla grossa operazione speculativa che conosciamo tutti sotto il nome di Balena Bianca, che ha portato a perdite per svariati miliardi di dollari, addirittura fino a 6 miliardi di dollari per la banca. I don't believe that played a part at all. I think this La posizione di Jamie Dimon, il capo della banca, è che la situazione è sotto controllo. La banca ha cercato di rimediare a questo problema sia dal punto di vista del controllo del rischio che dal punto di vista del recupero delle perdite. I profitti, in effetti, trimestrali, soltanto trimestrali, di JP Morgan Chase sono stati sufficienti a coprire queste perdite. Ma gli inquirenti hanno stabilito che in realtà la banca non si è comportata nel modo più trasparente possibile quando si è trattato di discutere, chiacchierare con i regulators per capire che cos'era successo. Questo è un problema naturalmente per JP Morgan Chase ed è un problema che sarà sicuramente discusso domani e dopodomani dal Consiglio della Federal Reserve, quando dovrà valutare fino a che punto c'è questo rischio di creare una bolla di liquidità incoraggiata da questi tassi di interesse così bassi. E dunque JP Morgan Chase è l'esempio più concreto, quello che sembrava più pericoloso. Ci si domanda se ci siano operazioni di questo genere in corso in banche più piccole, in altre istituzioni finanziarie che non sono ancora emerse. America 24. Bene, infine, parlando d'America, non potevo non chiudere con la visita di Joe Biden a Roma. E Joe Biden è a Roma per partecipare alle grandi cerimonie per la proclamazione del nuovo papato, del papato di Francesco, e ne ha approfittato per avere degli incontri in Italia. La nostra situazione politica è seguita con una certa attenzione e, aggiungo, preoccupazione a Washington. Joe Biden aveva già incontrato il Presidente della Repubblica, lo ha visto questa mattina, in questo momento sta terminando, credo, un incontro con il Presidente del Consiglio, Mario Monti. Il Presidente della Repubblica ha rassicurato Biden sul fatto che ci sono già il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ma la situazione resta incerta. A questo punto l'Italia, dal punto di vista americano e dei mercati internazionali, soprattutto per quello che è successo a Cipro, deve dare dei segnali concreti che si andrà avanti lungo quella che è la strada del risanamento e della riforma, altrimenti saranno guai. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Gli Strokes hanno diffuso il video del loro nuovo single All The Time. Uscirà il 25 marzo in anteprima degli Strokes, All The Time. È tutto, Mario Protero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!